aggiornamento di Banta 80 in corso. La procedura impiegherà solo pochi istanti. Velocità smodata! Via! E siamo tornati, benvenuti e ben ritornati, cari fedeli radiospettatori, stavo dicendo, dannazione, fedeli, fedelissimi di Radio Città Fujiko e soprattutto anche di Panta 80, qui ogni lunedì dalle 21 più o meno fino alle 22, così per un'ora di cazzeggio, dai ragazzi, diciamolo. Stavo cercando di, insomma, indorare la pillola, che poi non ho mai capito perché indorare, perché si dovrebbe indorare, al massimo la addolcisci la pillola. Ma a parte queste divagazioni e questi dubbi esistenziali, benvenuti sulla Panta 80 Time Machine e questa volta anche, diciamo, con la supplenza. E quando c'è la supplenza, quando il Panta non c'è, Andrea balla, diciamo, in questa maniera. In realtà Andrea fa un po' di casino nella playlist, perché un po' oggi ritorniamo ai vecchissimi tempi, ultra schizofrenica. Ma al di là di tutto, come state, come non state, fateci sapere, insomma, cosa state facendo. Vi ricordo subito al volissimo il numero verso il quale potete mandare gli SMS, WhatsApp, Telegram, quello che volete, è 333 1809 494, e io vi lancio già un pochettino quello che potrebbe essere una sottospecie di tema di oggi, ovvero sia: settimana scorsa ci sono stati festeggiamenti, per quanto mi riguarda. No, non è San Valentino, io ripudio e detesto il San Valentino, sono il Grinch del San Valentino, però ci sono stati festeggiamenti e con amici miei ricordavamo i tempi quando, insomma, per compleanni, lauree, queste cose qui, si diventava molto molto felici e molto allegri, ecco. E siamo andati un po' nell'aneddoto, e ogni volta capita che quei farabutti, a cui voglio un sacco di bene, ma comunque ricicciano fuori, scusatemi, mi era partito il dialetto abruzzese, un aneddoto che mi riguarda, ovvero sia che io a un certo punto, era l'Aquila 2007, quindi parliamo di secoli e secoli fa, dannazione, quasi 20, io ho iniziato ad abbracciare le macchine, tranquilli, non è che mi ci lanciavo, proprio le abbracciavo, il cofano le abbracciavo e dicevo: vi voglio bene, ti voglio bene Lancia Y10, ti voglio bene Fiat Tempra. La Tempra era un po' un casino ad abbracciarla, ma comunque così. Quindi io vi chiedo: vi ricordate qualche cosa legata a dei festeggiamenti che sono diventati fin troppo festaioli, diciamo così, e che a distanza di anni tra voi, i vostri amici, i vostri parenti, anche perché no, lo ricordate con ora con piacere, con qualche risata, ma magari prima anche con un certo imbarazzo? Ditecelo. Nel frattempo io taccio e partiamo direttamente con gli AC/DC, che tra l'altro sono tornati a essere attualità. Siete riusciti tra l'altro a prendere un biglietto e soprattutto a non svenarvi? Fatecelo sapere. Noi intanto ci ascoltiamo TNT. TV screen. AC/DC, TNT, insomma, siamo anche prima degli anni 80, ma siamo comunque nel presente, perché per l'appunto per quei pochi che si sono persi la notizia e quindi di conseguenza anche la possibilità di parteciparvi, gli AC/DC torneranno in Italia, precisamente a Reggio Emilia, al campo volo, il 25 maggio. Dicevo, oramai la possibilità di parteciparvi è risicata proprio con l'umicino, perché i biglietti sono stati polverizzati, nonostante non costino esattamente poco. Qua mi fermo, insomma, al di là delle polemiche e tutto il resto, perché capisco anche che nel corso di questi ultimi anni sono aumentati i costi tra produzione, cazzi e mazzi, eccetera eccetera eccetera, però 140 euro per un biglietto a cui si deve sommare comunque la tassa di là, quell'altra commissione, eccetera eccetera, insomma, faccio prima a risparmiare un altro po' e mi compro una chitarra, anche una discreta Epiphone standard Les Paul. Ma a parte queste cose qua, salutiamo il grande Mauri di Dopamina che ci segue costantemente. Ciao Mauri, ti vogliamo tanto tanto bene, ti porto anche i saluti del buon Panta. E noi continuiamo così con questa puntata un po' free roaming, come direbbero quelli apparentemente giovani, e passiamo a un'altra persona che è scomparso completamente dai radar, almeno per quanto mi riguarda, e anche la sua voce, purtroppo, perché gli anni si fanno sentire, probabilmente un po' di mala gestione nell'ultima decina, quindicina d'anni, e parliamo quindi per l'appunto dei Bon Jovi. E settimana scorsa, ok, è stato San Valentino, ok, questa quindi la dedico tutti qua a tutti gli innamorati o presunti tali, o ai quali poi l'amore è scoppiato tra le mani e quindi si sono fatti male. You give love a bad name. Sono un bastardo, sì. Chi è rimasto ancora ai Bon Jovi dei tempi d'oro, anche dei primi 2000, insomma, con It's My Life e compagnia cantante, che rimanga in quel mondo, perché un po' riascoltare dei live del 2018-2019 dove lui fa veramente fatica, ma veramente fatica, non dico ad arrivare alle note così, perché comunque nel corso degli anni abbassi la tonalità e riesci insomma un po' a sfangarla, ecco, no, però proprio fa quasi sussurra, ecco, e dispiace tanto, tant'è che però l'ultimo disco era quasi un pop country, non era nemmeno orribile, diciamo, non era un bell'album, tant'è che mi sono dimenticato anche come si intitoli, però quantomeno come stile, ecco, era più aggraziato, meglio per la sua attuale condizione vocale. Ma tuttavia, questo lunedì 19 febbraio alle 21:16, qui in compagnia della cricca dimezzata, ma nemmeno, perché il buon Panta ci saluta dalla sua postazione casalinga praticamente, e vi abbraccia a tutti quanti. Settimana prossima saremo tutti quanti insieme appassionatamente di nuovo. Proseguiamo con questa scaletta un po', per l'appunto, che va a destra e a manca, ma ci azzecca sempre bene, perché ora, tra l'altro, vi ho ricicciato fuori dall'archivio di Panto 80 i Duran Duran, ma con un pezzo molto molto molto, secondo me, può piacere, Planet Earth, 1981, quindi siamo agli albori, non è male per niente. We'll be right back. Il bello dei Duran Duran, soprattutto quelli degli inizi, è che riescono a mettere sul piatto, come si suol dire, tante cose, tante influenze molto diverse l'una dall'altra. E poi all'inizio degli anni Ottanta mi fa impazzire comunque che si sentisse, in qualsiasi sia la canzone, il basso, ma con quel fare un po' da tritatutto, ecco, come si può dire, un po' stile Zappa. Non Frank Zappa, ma proprio la Zappa, però detta con, non so come, incisivo, ecco, semplicemente Andrea era incisivo, senza andare di badile, zappe e robe varie. E quindi, insomma, ogni tanto è sempre bello ricicciar fuori dal cilindro di Panta 80 un po' anche Duran Duran, anche nella loro veste famosa, sì, ma non così tanto come, insomma, i loro successi più sdoganati. Nel frattempo vi ricordo, a proposito di Duran Duran, che saranno quest'estate, precisamente il 21 luglio al Lucca Summer Festival, quindi se avete voglia un po' di sentirli di nuovo, o perché no, avere la curiosità di come se la cavano i ragazzotti ancora nel 2024, Lucca Summer Festival. E nel frattempo, a proposito di ragazzotti, io vi dico questo: se a Sanremo hanno ritirato fuori da non so dove i ricchi e poveri, chi siamo noi di Panta 80 per non ritirar fuori dallo spazio siderale i Rockets con Galactica? E lo possiamo fare. C'è solo un sistema di controllo, non ci state, ah, sì? Consegnando la morte nera di Star Trek. You used to crawl, you had lost your soul. Oh my God. Cosa figa dei Rockets, quella che mi ha devastato la mente di volta in volta, è che tu li metti sul piatto, li metti su Spotify, li fai sentire a qualcuno, non ti dirà mai è qualcosa di estremamente vecchio. Cioè i Rockets sono godibili tutt'oggi, cioè erano talmente avanti che ora vanno bene. Vanno bene, al massimo c'è qualche ingenuità, però per limiti tecnici dell'epoca, cioè un suono un pochettino più ripulito, ma vai a vedere che mai faranno una remastered dei loro dischi, dei loro album, col suono tutto pulito, preciso e perfetto. Vedi che botta sonora che ti danno anche ora, tuttora, nient'altro che ora, 21 e 28 a proposito di ore. Io direi di fare così, signore e signori, diamo spazio alle pubblicità e poi noi ci rivediamo subito dopo per il giro di boa di Pantottanta e quindi di conseguenza l'ultima mezz'ora qui con la Pantottanta Time Machine. A dopo! Piccolo spazio pubblicità. Inizia ora la seconda parte di Panta 80. La musica è di tutti e per tutti. La scuola popolare di musica Ivan Illich è aperta a chi vuole suonare e cantare insieme agli altri, a chi non ha mai preso uno strumento in mano, a chi vuole diventare un musicista, a chi vuole improvvisare, a chi vuole ascoltare musica slegata dai generi, a chi vuole imparare divertendosi. Tutto il resto non importa. Scuola popolare Ivan Illich, nessuno escluso. Visita il sito www.spmii.it o chiama allo 051 357753. Oh no! Mi sono entrati i ladri in casa! È già la seconda volta! Pensavo che la mia porta blindata fosse sicura. Mi hanno portato via tutto. Ma, signor Rossi, qui ci vuole un professionista serio. Chiami la BM Security di Bertozzi Marco. In tempi rapidissimi le sostituiranno le serrature e aggiorneranno il livello di sicurezza. Così avrà una casa più sicura. BM Security di Bertozzi Marco, fabbri di famiglia a prezzi onesti. 346 708 20 65. Grazie signora Laura, lo chiamo subito. 346 708 20 65. Scopri la magia della stagione teatrale 2023-2024, Tre Teatri per Te, del comune di San Giovanni in Persiceto. Grandi artisti, grandi spettacoli e grandi storie. Scegli tra il biglietto singolo o le varie formule di abbonamento. Informati allo 051 82 50 22 o manda una mail a biglietteriateatro@comunepersiceto.it. Tre Teatri per Te, che la magia abbia inizio. Giovedì 29 febbraio al Teatro Comunale Paolo Händel in Niente Panico. Inizia ora la seconda parte di Panta 80. Lo spazio-tempo si è distorto talmente tanto prima che ha scombinato un po' con le carte dei vari jingle, ma comunque ora siamo ufficialmente nella seconda parte di Fanta 80 qui su Radio Città Fucino 103.1 in FM. O se ci state ascoltando o se ci volete ascoltare le prossime volte anche in streaming su www.radiocittafucino.it oppure tramite l'app che è in versione sia Android sia iOS, quindi ci potete ascoltare, potete anche leggere gli articoli e tutto ciò che viene prodotto dalla redazione di Radio Città Fucino in qualsiasi momento tranne quando siete alla guida. Mi raccomando, lì ci potete ascoltare e leggere quando siete tranquilli, belli, pacioccosi a casa o in pausa. Detto questo, queste un po' raccomandazioni da genitore, io direi che nel frattempo mi stavo appassionando alla questione dei Rockets che avevo tirato in ballo così con appunto Galactica, che è stato l'ultimo brano prima della pausa, e ho scoperto, mio malgrado e mia ignoranza, non lo sapevo, che l'anno scorso, cioè nel 2023 appena passato, hanno pubblicato un album particolare, dico particolare perché di cover, che si chiama Time Machine. E io ora non so se riesco a intercettarlo in questa puntata, se no settimana prossima col buon Panta ve la sbattiamo in onda, perché c'è una versione Rocket Style di Rebel Yell di appunto Billy Idol. Io sono devastato dalla curiosità. E faranno anche, c'è anche una versione di Piccola Katie dei Pooh. Io quando leggo queste cose impazzisco, un po' come Rocky, in Rocky 4, anzi no, in Rocky 3, che dice non fa male, pigliami a sberle praticamente contro Mr. T. E a proposito di Rocky, sapete che c'è? Io faccio un piccolo cambio nella scaletta, tanto oggi siamo in supplenza, quindi rimaneggiamo un po' così in diretta e ci andiamo a sentire No The Eye of the Tiger. No, perché è troppo scontato. No Easy Way Out, tratta da non Rocky 3 ma Rocky 4. Perché? Perché Gasa. E siccome è un periodo in cui ho deciso di ritornare un pochettino in forma, mi serve della musica un po' grezza e feroce. can share this skin. We can know how we feel inside. Instead of going down an endless road, not knowing if we did or lied. Something's not worth fighting for. Some feelings never die. I'm not asking for another chance. I just wanna know why. There's no easy way out. There's no shortcut home. There's no easy way out. C'è una motivazione per cui, per la quale il sottoscritto reputa No Easy Way Out motivazionale per quando deve decidere di allenarsi, perché mi viene in mente sempre in maniera costante l'allenamento di Rocky Balboa in Russia, cioè con la neve, le cose che dagli schiaffoni ai tronchi degli alberi, così. Non si sa bene per quale motivo, oppure insomma fa degli allenamenti allucinanti. Ho detto, se ci può riuscire Rocky, io di certo ho qualche dubbio su di me, ma comunque proviamoci. E niente, così, momento motivazionale, così. Continuiamo nel frattempo in questo panegirico di delirio allucinante che è Panta 80, sulla Panta 80 Time Machine in quest'ultima mezz'ora. Sono le 21:38, signori e signori miei. Io continuo un pochettino a spulciare su quelle che possono essere le cose papabili e sto cercando in tutti i modi di fare una conclusione degna e soprattutto più o meno coerente, diciamo così, dal punto di vista stilistico della musica, ma ho deciso che sì, dai, continuiamo sempre anni 80. I Journey, che parentesi nella parentesi, continuano comunque a tirar giù dischi anche di discreta fattura, e questa qui è la loro classica inevitabilmente strafamosa Separate Ways, scusate, che qualcuno che però è all'ascolto, che conosce il video di Separate Ways, mi deve spiegare perché fanno i cazzoni, perché i Journey si comportano da emeriti adorabili imbecilli, che la musica è tutta bella, pomposa, epica, e poi ci sono loro che spuntano tipo le marionette dei Muppets, così, a destra e a sinistra. Se mi volete fugare questo dubbio, il numero è 333-1809-494, e nel frattempo ci andiamo un po' a sparare un po' di tastieroni allucinanti. È necessario un tempismo al decimo di secondo. Tra l'altro, concentrazione assoluta. Sei pronto? Sì. Io sono nato pronto. comunque un pezzo sempre della Madonna, come si suol dire tecnicamente, i Journey. A proposito, vi dicevo prima che insomma la band è ancora attiva in studio, tira giù un po' di dischi ancora e sono tuttora godibili. Certo, non è che si grida al capolavoro, per carità, però se vi volete fare un ascolto dei Journey odierni piacevole, comunque piacevole, vi segnalo Freedom, che al momento ha un anno e mezzo perché è uscito sul finire del 2022. È un album più che discreto per gli amanti comunque delle sonorità dei Journey. Non ve ne pentirete. Se ve ne pentite, io sono qua e potete dirmi: Andrea, ci hai consigliato male, sono pronto alle critiche. Ma non si può criticare il fatto che sono le 21:47 qui su Pant80. Stiamo già intravedendo quello che è il garage per mettere a posto e a riposare la Pant80 Time Machine questa sera e dare di conseguenza spazio agli amici di Balla e di Fendi. Proseguiamo ancora con questo crocevia di sonorità e io vi piazzo una roba così, quasi a caso. In realtà non è a caso, perché ho letto oggi dei Dire Straits un aneddoto. Praticamente negli anni 80 hanno fatto un concerto a Napoli, allo stadio, e però era bruttissimo tempo, tant'è che c'erano proprio pioggia a catinelle, come si suol dire, fulmini, saette, tutto il resto. Quando sono arrivati in loco per fare il soundcheck hanno trovato una situazione non esattamente ottimale, nel senso che parte della strumentazione era andata a farsi benedire, perché tra la pioggia e qualche cortocircuito un po' di robe insomma erano mai più utilizzabili. Per fortuna i tecnici, chi era lì presente, è riuscito a salvare il salvabile. Comunque quanto bastava per fare un concerto molto più che dignitoso. Mentre stavano suonando, un fulmine si è abbattuto nelle vicinanze, nei pressi dello stadio, e ha scaricato parte dell'elettricità proprio sullo stadio e una sezione delle tribune, ne è stata colpita. Ovviamente la tensione era bassa, bassissima, in pochissimi si sono resi conto che qualcosa non andava, nessuno si è fatto niente, però ecco, i Dire Straits a distanza di anni, anche in qualche loro libro, qualche loro biografia, citano sempre questa cosa qui. Dunque, perché tutto questo panegirico, Andrea? Semplicemente per introdurre Walk of Life, che mi sembrava una cosa simpatica da farvi ascoltare e ascoltare tutti quanti insieme. Sempre se parte. Allora parti. We'll be right back. ce l'ho quasi fatta a non fare una cosa stridula. Assolutamente. Comunque, 21:53, la Panta 80 Time Machine l'ho appena sistemata accuratamente nel garage, sto per riconsegnare le chiavi al buon caro Panta e noi comunque vi salutiamo, vi diamo appuntamento come sempre a lunedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22 circa, più o meno, insomma, a seconda degli eventi, saremo di nuovo io e il buon Panta prossima volta. Vi abbracciamo, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi, speriamo sempre, come sempre, di avervi regalato un'oretta così, un po' di cazzeggio, perché ci sta sempre un pochettino di cazzeggio, soprattutto il lunedì a inizio settimana. Lasciamo la parola agli amici di Balle e di Fendi, non prima però di avervi salutato con un pezzone. I Blues Brothers, signori, perché... C'è stato un filologico secondo voi fino ad ora in questa ora? No, e allora va bene, vanno bene i Blues Brothers alla fine. Ciao! Ti prego non ucciderci! No, non ti uccido! Ti prego non ucciderci! Lo sai che ti amo, baby! Non ti volevo lasciare! Non è stata colpa mia! Che bugiardo schifoso! Credi di riuscire a cavartela così? Dico sul serio! Ero rimasto senza benzina! Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto. Una tremenda inondazione. Le cavallette. Non è stata colpa mia. Lo giuro su Dio. Tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. nella funzione